Perfetto Giorno di Simone Spezia. Maltempo e gelo, blocchi e ritardi per decine di treni, allerta in Liguria, voli cancellati in tutta Europa. Putin annuncia il ritiro delle truppe dalla Siria su Gerusalemme, oggi Netanyahu in Europa tra le tensioni con i leader. Parte il future su Bitcoin, quotato alla borsa di Chicago, balzo immediato sopra i $18,000. Sorteggi di Champions League, la Juventus giocherà contro il Tottenham, la Roma contro lo Shakhtar Donetsk. Racket dell'elemosina, almeno 200 persone solo a Milano, emerge dall'indagine del comune. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video, e se volete, come sempre, potete commentare anche là. Dall'altra parte del vetro, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Paolo Corleoni in regia. Iniziamo da questa ondata di gelo che ha colpito soprattutto una parte del nord Italia e che sta creando in queste ore problemi soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei treni in Piemonte e Liguria. Dunque, iniziamo da qua. Iniziamo a farci dare un quadro della situazione da Cristian Colaneri, che è direttore commerciale esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana. Buongiorno Colaneri, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dice come stanno le cose, perché abbiamo visto dei tabelloni terrificanti girare sui social delle stazioni di Genova e di Torino con addirittura 200-250 minuti di ritardo. Ci dia un quadro delle situazioni più critiche. Sì, grazie intanto. Beh, attualmente registriamo in effetti ancora criticità per quanto riguarda i collegamenti da Genova per Milano, Torino e viceversa. Abbiamo attivato dei servizi sostitutivi con bus, contiamo di ripristinare i collegamenti dalla metà del pomeriggio. Abbiamo criticità anche sulla linea Verona-Brennero con rallentamenti fino a 60 minuti, interrotta ancora parte della linea Pontremolese La Spezia-Parma, in particolare da Borgo Valditaro a La Spezia, ripresa invece regolarmente la circolazione sulla Bologna-Prato. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Si poteva prevedere qualcosa di questo genere? In queste ore ci hanno un po' presi in giro a noi giornalisti, perché abbiamo parlato di gelicidio, che in realtà è un fenomeno meteorologico molto preciso e che, da quel che ho capito, è esattamente quello che si è verificato e vi ha creato problemi sulle linee. Esatto, i problemi li abbiamo proprio per la formazione del ghiaccio sulle linee di trazione elettrica, proprio a causa di questo fenomeno causato sostanzialmente da correnti calde che arrivano dal sud e incontrano degli strati di aria fredda e generano sostanzialmente del ghiaccio sulle nostre linee di trazione elettrica. Quindi difficile da prevedere e da prevenire, mi sembra di capire, Colaneri? Direi proprio di sì, ma i nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare le linee nel più breve tempo possibile. Abbiamo anche delle corse con treni ricognitori proprio per accelerare il ripristino delle linee. Grazie Cristian Colaneri, direttore commerciale esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana. Filippo Thierry invece è meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Thierry, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Situazioni più critiche dove? Liguria, Alta Toscana, Appennino Emiliano, dal punto di vista delle piogge sia già cadute sia previste nelle prossime ore fino a tutto stasera, neve a bassa quota soltanto sulla pianura padana più occidentale, quindi quella piemontese. Il problema del gelicidio di cui avete appena parlato, ancora fino a stasera nelle valli più incassate proprio dell'entroterra ligure ma anche dell'Appennino Emiliano, continua a essere a rischio prima che queste correnti meridionali riescano a scalfire quel cuscino di aria fredda anche nelle valli più incassate, quindi la pioggia non trovi più temperature negative, ci vorrà ancora qualche ora. La ventilazione burrascosa o in alcune zone addirittura di tempesta, soprattutto anche qui tra Mar Ligure, Tirreno, ma anche Medio e Alto Adriatico, con mareggiate quindi lungo le coste esposte. Quando migliora? Diciamo che più che un miglioramento c'è un trasferimento delle precipitazioni al nord, da ovest verso est, quindi migliorerà domani sul nord-ovest, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, ci saranno ancora delle precipitazioni tra Lombardia orientale e Triveneto, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia potranno essere ancora abbondanti. Per quanto riguarda il centro, le piogge vanno sfilando verso appunto le regioni centrali, non in maniera così incessante come quelle descritte tra Levante, Liguria, Alta Toscana e Appennino Emiliano, però ci saranno comunque dei rovesci e temporali che nella giornata di domani, anche a cavallo con quella dopodomani, interesseranno il centro Italia e scenderanno poi un po' anche verso sud. Allora io la ringrazio, grazie a Filippo Thierry, meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e all'ascoltatore che ci scrive, vi prego fateci sapere che succede sulla A22, siamo bloccati da più di un'ora senza avvisi né informazioni, promettiamo che ci informeremo e sicuramente vi faremo sapere qualcosa a breve. Tra l'altro alle 13.15 c'è come sempre l'appuntamento con le informazioni per chi viaggia, i colleghi sapranno darvi presumibilmente qualche chiarimento, ma comunque adesso vedremo se riusciremo a tirare fuori qualche altra informazione. Intanto andiamo nel resto d'Europa, dove è la situazione difficile, almeno in alcuni luoghi. Emergenza maltempo non solo sulla penisola italiana, ma su buona parte dell'Europa. Tra i paesi a farne maggiormente le spese è la Gran Bretagna, in particolare Scozia e Galles, con scuole chiuse in varie contee. Neve a Londra, dove si sono registrati forti disagi alla circolazione, sia ferroviaria, in particolare per i treni Eurostar Londra-Parigi, che aerea. Molte le cancellazioni all'aeroporto di Heathrow, il più congestionato d'Europa. I passeggeri lamentano non solo ritardi, ma anche il fatto di essere rimasti bloccati a lungo nei velivoli dopo l'atterraggio. Gravi disagi in Belgio, con 1.000 chilometri totali di code se si sommano tutte le file del paese, tunnel chiusi nella capitale, voli dirottati su altri aeroporti, molti treni interrotti e autobus fermi. Voli cancellati anche a Zurigo, in Svizzera, e in Germania, dove l'aeroporto di Düsseldorf è rimasto chiuso per 4 ore. Ritardi e cancellazioni poi allo scalo di Francoforte. 200 passeggeri, tra cui molti italiani, sono rimasti bloccati proprio a Francoforte dopo che ieri sera un volo Ryanair diretto ad Oriol Serio non è decollato per le condizioni meteo avverse. Allerta in Spagna e Portogallo per l'arrivo della tempesta Ana, che porterà forti piogge e venti fino a 120 km orari. In Francia, infine, grossi problemi per il ghiaccio che ha causato numerosi incidenti stradali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo il quadro per quanto riguarda il maltempo in Italia e in Europa, e soprattutto i disagi che sta generando questo maltempo. Per quanto riguarda la 22, ce lo chiedeva un ascoltatore, non abbiamo aggiornamenti particolari, sappiamo che ci sono stati degli incidenti, c'è qualche coda e più di questo non c'è, ossia non c'è una situazione particolare di emergenza. Veniamo all'estero, iniziamo dall'annuncio, del quale in parte già si sapeva naturalmente, del ritiro delle truppe russe dalla Siria, arrivato questa mattina dallo stesso Putin. Здравствуйте, товарищи! Vladimir Putin ordina l'inizio del ritiro delle truppe russe dalla Siria. Lo fa atterrando a sorpresa nella base siriana di Meymin, vicino alla Takia, che per 26 mesi, da quando cioè Mosca ha deciso di intervenire direttamente nel settembre 2015, è stata di fatto la capitale della sua azione militare nel paese. La base si trova a 50 km dal porto di Tartus, dai tempi sovietici, snodo della marina russa nel Mediterraneo. Accolto da Bashar al-Assad sulla pista da dove sono stati lanciati i Sukhoi 24M e 25SM che hanno condotto molti dei 92.000 raid degli ultimi 2 anni, Putin ha detto che Mosca non dimenticherà mai i sacrifici e le perdite pagate nella lotta al terrorismo ed ha auspicato che la Siria, con l'aiuto anche di Iran e Turchia, possa riprendere un normale processo politico. Il messaggio video del presidente russo è stato trasmesso mentre Putin era già in volo per l'Egitto, dove è stato accolto dal suo omologo egiziano al-Sisi. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno di questo grand tour medio orientale, farà tappa ad Ankara per un incontro con il presidente Erdogan. Lontanissima sembra ormai la crisi che proprio sulla Siria divise i due presidenti quando nel novembre 2015 Ankara abbatté un caccia di Mosca sul confine turco-siriano. Dopo lo scontro e la pacificazione, oggi Mosca conta anche sulla Turchia per riprendersi la scena in un Medio Oriente dove la stella americana appare più appannata che mai. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora a Bruxelles, dove a proposito di Medio Oriente in visita il premier israeliano Netanyahu, mentre proseguono sul territorio scontri e violenze, anche se la giornata è di apparente calma, la questione di Gerusalemme resta al centro della scena. È un incontro tra i più tesi, quello che si è svolto oggi a Bruxelles tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i ministri degli esteri dei 28. Al centro dei colloqui la controversa decisione americana di spostare da Tel Aviv a Gerusalemme l'ambasciata americana in Israele, riconoscendo nei fatti i territori occupati dal governo israeliano nella guerra dei sei giorni del 1967. I 28 hanno respinto la scelta americana, negando di voler fare altrettanto in assenza di cambiamenti più profondi. L'Unione Europea è a favore di una soluzione che preveda due stati in Palestina, quello israeliano e quello palestinese. Ambedue devono riconoscersi reciprocamente. Benjamin Netanyahu si è detto oggi sicuro che una maggioranza di paesi europei seguiranno l'esempio americano. Non è probabilmente così. La paura europea è che la scelta americana possa creare nuove tensioni. Già nel fine settimana una sinagoga a Göteborg è stata attaccata a colpi di bombe Molotov. La decisione di Washington rischia di scatenare nuove forme di antisemitismo, di impronta islamica o non. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Siamo alla politica italiana con l'attenzione del centro-sinistra, soprattutto ancora concentrata sul tema di Grasso. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Pietro Grasso presenta Liberi Uguali e garantisce, comando io, non Massimo D'Alema, in risposta a Matteo Renzi. È una vita che guido giudici e processi, dice il Presidente del Senato, posso guidare un partito e ve ne accorgerete, e non pronostico un futuro roseo al segretario PD. Grasso presenta poi il simbolo della nuova forza politica di sinistra, un cerchio color amaranto con il suo nome e quello del partito. Priorità è combattere le disuguaglianze. Quando ci sono 18 milioni di poveri, dice Grasso, è evidente che bisogna ricostruire la sinistra e quindi il paese. Intanto oggi si riunisce anche a Pisti, lavora per evitare la scissione di Alternativa Popolare, spaccata tra chi vuole andare con il centrodestra, anche se il leader della Lega Matteo Salvini ha già detto no ai profughi di Alfano, e chi con il PD come Beatrice Lorenzin, nel solco segnato dalla coalizione di governo. Nel Movimento 5 Stelle invece Luigi Di Maio propone la chiusura dei negozi per i giorni di festività. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo al primo giorno di quotazione per il future su Bitcoin, che apre oltre i 18.000 dollari. Il Bitcoin entra nel salotto buono della finanza. Da oggi è possibile comprare contratti futures, quei prodotti derivati che permettono di scommettere sul rialzo o sul ribasso di un bene riducendo l'esborso e quindi anche i rischi. Questo è tanto più importante in un mercato altamente rischioso come quello del Bitcoin e delle criptovalute in generale. Tanto che finora le grandi banche di Wall Street hanno detto di non fidarsi di un mercato estremamente volatile, anche se poi con l'altra mano fanno in qualche modo affari su strumenti meno regolamentati. In più c'è un problema di quotazione, perché spesso ci sono prezzi molto divergenti tra le diverse piattaforme utilizzate per acquistare e vendere Bitcoin. Ma il nodo di fondo rimane quello di capire se siamo all'apice della bolla o se il Bitcoin continuerà ad apprezzarsi come negli ultimi mesi. Data anche la peculiarità della sperimentazione di un asset digitale utilizzato come strumento di scambio e di riserva di valore senza l'avallo di nessuna autorità centrale, è veramente difficile fare previsioni. I contratti futures aggiungono però un tassello di maggior garanzia e di progressivo assoggettamento alle regole, che non può che fare bene a un mercato finora restio per propria natura a qualsiasi norma. Pierangelo Soldavini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia appena battuta dalle agenzie, ve la diamo perché è importante, perché l'avevamo già data per fatta nei giorni scorsi, ossia l'ingresso nella manovra, nella legge di stabilità, della stretta sull'uso dei cellulari alla guida con multe e pene più pesanti e l'obbligo di prevedere allarmi per i seggiolini dei bimbi montati in macchina. E sono fra le misure che sono incappate nella tagliola dell'ammissibilità o meno di queste norme, ossia queste norme non sono correlate alla legge di stabilità, non hanno nulla a che fare con la manovra e quindi ne escono fuori. Presumibilmente il governo o le forze parlamentari proveranno a inserirle in altri provvedimenti. Passiamo al calcio che ci parla ovviamente del fine settimana di campionato che conferma il primato dell'Inter e il rallentamento del Napoli, ma soprattutto dei sorteggi che sono arrivati poco fa, quelli per la Champions League, per gli ottavi di finale. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Beh, direi di partire da qui perché è la notizia più fresca che abbiamo. Abbiamo i sorteggi di Champions League con le italiane che non pescano poi male, perché per la Juventus c'è il Tottenham, certo è un inglese, certo potrebbe essere, sembra l'anno delle inglesi, però c'era di peggio. Quindi conviene accontentarsi, pesca decisamente bene la Roma, che però ricordiamo è arrivata prima nel suo girone, quindi si guadagna lo Shakhtar Donetsk, che ha eliminato il Napoli. Quando stiamo parlando di questi livelli di Champions League, se peschi lo Shakhtar Donetsk male non sei messo, anche se Totti ha dichiarato, poi lo sentiremo in tutti i convocati, beh, la Roma interessa al giusto, l'Europa, il nostro piano di battaglia è il campionato. Sempre per quanto riguarda la Champions League, ci viene già da leccarci le dita per un sorteggio che è crudelissimo con Real Madrid e Paris Saint-Germain, perché le mette una contro l'altra, i detentori del titolo, con una delle squadre più forti di questo inizio di stagione, che ieri ha praticamente messo le mani già sul titolo inglese vincendo il derby di Manchester, con uno strascico di polemiche e anche mani addosso tra Mourinho e la controparte, non Guardiola ma Ederson, portiere del City, anche di questo parleremo. C'è un avversario durissimo anche per Antonio Conte, perché pesca il Barcellona, Chelsea-Barcellona, altra partita da circoletto rosso per quanto riguarda questo sorteggio di Champions. Quello dell'Europa League è in corso, vi diremo dopo chi pescheranno: Milan, Lazio, Napoli e Atalanta. Quanto al campionato, è stato il weekend degli 0-0, aperto da Juventus-Inter e poi proseguito dalla Roma che si è incartata sul Chievo, soprattutto sul vecchio portiere sorrentino, per il Napoli che si è incartato sulla Fiorentina. E dunque praticamente un turno in bianco anche dal punto di vista della classifica, perché nulla cambia, aspettando la Lazio di questa sera, che se la Lazio vincesse il posticipo del posticipo, allora avremmo praticamente 5 squadre in 3 punti e un campionato meraviglioso in testa. Allora grazie Carlo, ne riparleremo ovviamente alle 14 in tutti i convocati, tanto di Champions quanto di campionato. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, giornata particolarmente importante oggi proprio per i problemi che ci sono, per ghiaccio, neve, maltempo in genere, e poi ci occuperemo di un tema sul quale siamo tornati spesso, sul quale torneremo oggi, perché c'è una notizia che riguarda Milano. Il tema è quello del racket dell'eremosina, ce ne siamo occupati perché nelle nostre città, li avrete visti tutti, li avete visti tutti questi migranti che sono agli angoli, vicino ai bar, con i cappelli in mano. Qualcuno sospetta, e lo sospetta per esempio il comune di Genova, che sta cercando di fare un censimento da questo punto di vista, o il comune di Milano, che in realtà l'ha già fatto e sta lavorando su questo, sospetta che ci sia un racket, ossia che queste persone in realtà siano mandate e portate là e poi ovviamente debbano pagare dei soldi a chi gestisce questo racket. Ci sono delle prime evidenze, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del maltempo e del gelo, abbiamo parlato del ritiro delle truppe russe dalla Siria, della visita di Netanyahu a Bruxelles, del future su Bitcoin, dei sorteggi di Champions League. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e lo dico subito agli ascoltatori che ci stanno scrivendo: ma non ve ne eravate accorti del racket delle elemosina? Ma certo, non è che siamo ciechi, le cose le vediamo, ma poi a un certo punto ci vogliono verifiche, fonti ufficiali, andare a vedere che cosa succede effettivamente, contare le persone, controllare, perché altrimenti è un pourparler, una chiacchierata tra noi. E il Comune di Milano ci ha messo degli uomini a lavorarci sopra ed è riuscito a trovare dei numeri, a identificare che qualcosa effettivamente c'è. Torna da noi Carmela Rozza, che è assessore la sicurezza del Comune di Milano, bentornata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, avete messo degli uomini a lavorare su tutto questo, degli uomini della polizia locale che hanno fatto anche pedinamenti e lavori di questo genere e hanno verificato che qualcosa sembra esserci, poi tutto andrà verificato ai magistrati, come è perfettamente naturale che sia, però qualcosa sembra esserci. Cosa? Ma guardate, intanto a me spiace che sia uscita la notizia, perché è stata una fuga di notizie. La polizia locale è da tempo che ci lavora, ma ancora non c'è un'indagine conclusa, non è stata data, segnalata a nessun magistrato. A breve dovrebbe essere affidata, segnalata a un magistrato. E questo è... Alcune informazioni non risultano neanche tra le nostre informazioni. Quello che posso dire. Sì, prego. Allora, da circa un anno l'amministrazione comunale di Milano e la polizia locale di Milano hanno notato queste presenze in città e quindi ha messo in atto una serie di attività per cercare di capire queste presenze, se sono legate a un'organizzazione, se sono singoli e se c'è anche sfruttamento. Ad oggi si sono appunto identificate alcune figure, sono state seguite e non si è avuto risultato organizzativi a tutt'oggi. Aggiungo io, perché la segnalazione che ho dato al mio comandante, che queste persone che chiedono l'elemosina col cappellino da baseball sono presenti anche a Firenze, li ho visti, sono presenti in Puglia, sono presenti in Sicilia. Quindi non è solo un fatto milanese e lombardo. No, tutt'altro, le dico assessore, tra l'altro, che noi ce ne eravamo occupati in passato, occupandoci del caso genovese, dove addirittura c'erano alcune associazioni che si occupano di accoglienza dei migranti che avevano rappresentato il problema dicendo: attenzione, perché noi queste persone in realtà ricevono del denaro quotidianamente, come è naturale in questo, come è naturale che avvenga in questo sistema di accoglienza per come è organizzato, e non ha senso che vadano a chiedere l'elemosina, perché ricevono vitto, alloggio e poi quel poco denaro quotidiano che serve per le spese, che ben sappiamo e che tante polemiche suscita. Quindi aggiungo anche Genova al gruppo, all'elenco nazionale. Quindi, che, prego. Mi dica la domanda. No, appunto, che cosa siete riusciti a scoprire, che cosa ci può dire? Allora, ad oggi non possiamo dire né che c'è un'organizzazione né che non c'è. Sicuramente è un fenomeno diffuso su cui la polizia locale sta mandando l'informativa al magistrato e su cui si continuerà anche sull'indicazione che il magistrato darà. La cosa che posso dire ai cittadini è sicuramente la cosa non l'abbandoniamo. Vogliamo arrivare fino in fondo. Volete arrivare fino in fondo. Quindi non siete al momento in grado di dire se ci sia un'organizzazione. Di certo, da quel che abbiamo capito, e non so se questo ce lo può dire oppure no, da quello che riferiscono le fonti giornalistiche che noi abbiamo trovato, certo, nella fattispecie il quotidiano La Repubblica, nella sua edizione milanese, ci sono addirittura degli orari, ci sarebbero. Sì, questo è un dato che confermano tutti, anche i cittadini. C'è una fascia oraria ben precisa. Per esempio, nel mio quartiere il sabato e la domenica mattina c'è una presenza precisa davanti a alcuni esercizi commerciali, e che alle 2 del pomeriggio finisce. E che finisce alle 2 del pomeriggio, quindi la mattina sostanzialmente. Principalmente la mattina, vediamo che sono tutti muniti di telefonino, si spostano con mezzi pubblici, non c'è quindi un'organizzazione che prende le persone e li porta sui luoghi. E ripeto, la nostro obiettivo dell'indagine è individuare fino in fondo tutta l'organizzazione. Fino a quella data dire cose di più è sbagliato. Ci può dare i tempi, assessore? No, sulle indagini i tempi è l'ultima cosa che può dare. Allora, la ringrazio intanto, grazie a Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, per quello che ci ha potuto dire, naturalmente, perché poi ci sono ovviamente delle indagini in corso, e torneremo su questo tema però, perché poi c'è stata a Genova proprio anche qualche polemica tra la Curia e il Comune, perché il Comune vorrebbe fare un lavoro di questo genere, ma la Curia si oppone. Prima di andare alla pausa, un altro tema che abbiamo affrontato spesso è quello di Cona, la base di Cona, quella dove, come vi abbiamo raccontato più di una volta, sono ammassati centinaia di migranti che si sono resi anche protagonisti di una marcia verso la prefettura di Venezia per avere delle condizioni migliori, condizioni igienico-sanitarie disastrose, tanto che per ragioni di sicurezza si è stati costretti a far spegnere le stufette e i riscaldamenti proprio in questo periodo. Un simbolo, se vogliamo, di un sistema di accoglienza che evidentemente non funziona. A questo Radio 24 dedica un viaggio in onda tutta questa settimana nel GR delle 7. Ci sentiamo alla prima puntata a cura della nostra Valentina Furlanetto, e poi nei prossimi giorni ci collegheremo proprio con Cona. Via. L'obiettivo che io mi sono dato è quello di arrivare all'accoglienza diffusa, chiudere nel più rapidamente del tempo possibile i grandi centri di accoglienza. Così parlava il ministro dell'Interno Minniti appena 2 mesi fa. Ma se sulla questione sbarchi il ministro può dire missione compiuta, anche se a molti questa missione non piace, sulla questione accoglienza c'è ancora molto da fare. Per capirlo è necessario inoltrarsi nella nebbia della pianura padana, a Conetta, nel Veneziano, uno dei più grandi centri d'accoglienza d'Italia. 1.400 presenze a luglio, 800 attuali, per una capienza massima di 500 posti. Rapporto schiacciante con la popolazione locale, 190 persone. Sì, anche un po' di paura, anche se loro non faranno niente, per carità. Ce ne siamo trovati qua senza capire. Nessuno ne aveva mai sentito parlare fino al 3 di gennaio, quasi un anno fa, quando al centro morì una giovane, Sandrine Bakayoko. E i migranti denunciarono la situazione in cui erano costretti a vivere: sporco, freddo, carenza di servizi primari, degrado. Una situazione che è ancora uguale, visto che a novembre 200 migranti hanno marciato lungo il Brenta chiedendo la chiusura di Conetta. E tuttavia, nonostante le promesse, Cona e gli altri campi restano. Lo ha confermato 4 giorni fa il sottosegretario all'interno Domenico Manzione rispondendo a un'interrogazione parlamentare. Per questo vi portiamo con noi a Conetta, perché è solo un piccolo borgo in mezzo alla nebbia, ma è anche un paradigma delle difficoltà dell'accoglienza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: Putin annuncia il ritiro delle truppe dalla Siria, Gerusalemme, oggi Netanyahu in Europa, tra le tensioni con i leader e con Bruxelles. Maltempo e gelo, blocchi e ritardi per decine di treni e problemi su strade e autostrade, allerta in Liguria, voli cancellati in tutta Europa. Parte il future su Bitcoin, quotato alla borsa di Chicago, balzo immediato sopra i $18,000. Sorteggi di Champions League, la Juventus giocherà contro il Tottenham, la Roma contro lo Shakhtar Donetsk. Stanno arrivando anche i sorteggi di Europa League, l'Atalanta i 16esimi col Borussia Dortmund. Per quanto riguarda la Lazio, starà contro lo Steaua, il Milan con il Ludogorets, e per quanto riguarda il Napoli giocherà contro il Lipsia. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Non c'è più tempo, non c'è più tempo per niente. Solo Mario Platero, America 24. Ci risentiamo alla fine per i saluti.